soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova. Come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia. No, Deborah, buongiorno. Innanzitutto, ma non riuscivo a interrompere Paolo Conte. Non ce la facevi. No, adoro Paolo Conte, avrei sentito anche tutta la canzone. Ma invece siamo in trasferta, ti ho portato al mare. Bravo, infatti non mi vedi già come sono più radiosa e contenta e no, serena. No, perché ti lamenti che non ti porto mai da nessuna parte. Allora ti ho portato devo in gita. Devo dire che come prima trasferta non mi posso proprio lamentare. Insomma, mi hai portato al Salone Nautico. Se mi compri anche una barchetta, diciamo che la trasferta è completa e io me ne torno a Milano davvero. Adesso su questo vediamo, facciamo magari una gita anche io in banca. Qua dopo ti do anche l'opportunità di indebitarti un po' se vuoi comprarmene una. Giusto, perché parleremo anche di leasing, anche. Ma nella seconda parte della trasmissione, perché adesso siamo appunto a questa 57esima edizione, siamo il primo programma di Radio 24 che va in diretta dal Salone Nautico. Esatto, per tutti quelli che passeranno di qua possono venire a trovarci presso i nostri studi, il nostro stand S35, molto vicino all'ingresso principale di Piazzale Kennedy, per cui non c'è bisogno neanche di indicazioni speciali di vigili urbani particolari che diano indicazioni. Questo è il più grande salone del Mediterraneo dedicato a questo settore, accoglie gli appassionati di mare, di sport acquatici, che possono anche provare in prima persona le barche e partecipare a numerose attività speciali. Quasi quasi prima di tornare a Milano mi facciamo una prova alla guida di qualcosa, perché no? Comunque ci sono più di 1000 barche, c'è un po' di tutto, c'è la vela, ci sono i fuoribordo, i gommoni, i powerboat, i motor yacht e così via. Quindi tutte le novità della nautica nazionale e anche internazionale tutto lungo questo percorso della fiera di Genova. Ci ospita Genova per l'appunto con tutte le sue bellezze artistiche, eventi che animeranno la città in occasione di questo salone come capita ogni anno. Ci accoglie anche dal punto di vista meteorologico un tempo fantastico e questo naturalmente favorisce anche la nostra diretta. Ci saranno numerosi programmi di Radio 24, come dicevamo iniziamo noi oggi, e il tema con cui iniziamo riguarda un tema che è molto caro a noi di Due di Denari, perché parliamo spesso di lavoro in ogni sua forma, e oggi parleremo di una importante iniziativa che proprio il Comune di Genova si appresta a lanciare. Riguarderà una serie di misure che mireranno a favorire la creazione di start-up e quindi Mauro direi che possiamo partire. Ricordatevi, anche se siamo a Genova potete comunque telefonarci, scriverci, mandarci sms, i numeri sono sempre i soliti. Allora, se volete telefonarci, 800 24 00 24, per gli sms e i whatsapp 349 238 6666, magari anche un'email. Che dici, Deborah? Due di denari @radio24.it. Se con un'imbarcazione volete venire, anche se nel caso abbiate trovato una bottiglia con un messaggio dentro che magari era rivolta a noi, hai visto mai? Portatecela pure qui allo stand del Salone Nautico. Partiamo allora sì con il primo argomento. Chi guarda Genova sappia che Genova si vede solo dal mare. Quindi non stia lì ad aspettare. Ivano Fossati, ti piace? Mi piace tantissimo, devo dire, mi voglio congratulare con Marco Lombardo, che salutiamo anche se l'abbiamo lasciato a Milano, perché la selezione di questa mattina è veramente gustosa per me, infatti. È un piacere. Ma invece è il momento di parlare con l'assessore al lavoro del Comune di Genova, Giancarlo Vinacci, che è venuto qui a trovarci. Buongiorno assessore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Quando il Comune sostiene il lavoro, potremmo intitolare così, assessore, questa prima parte del nostro programma, perché noi lo ringraziamo perché ci presenta proprio in anteprima e una notizia che è ancora stata diffusa relativamente sulla stampa locale, un'iniziativa che partirà a brevissimo. Il 2 ottobre il Comune di Genova inaugura Tursi Up to Work, un incubatore che sarà attivo proprio tra pochissime settimane e che ha l'obiettivo di supportare le start-up che saranno proposte in particolar modo dagli studenti universitari prossimi alla laurea. Ma naturalmente il vostro obiettivo è anche quello di sostenere iniziative imprenditoriali a più largo raggio, diciamo avviate da aziende, manager e ricercatori. Assessore, allora, che cosa avete in mente? Come mai le è venuto in mente? Lei peraltro assessore anche da poco in questa città e si sta subito caratterizzando cominciando ad avere un certo dinamismo. Beh, io sono uno dei tanti genovesi che ha dovuto lasciare la città per trovare lavoro qualche anno fa, per cui sono rientrato per fare qualcosa per la città e l'obiettivo è ripopolarla. Genova nasce. Genova 30 anni fa aveva 850.000 abitanti, oggi sono meno di 600.000, ha perso tante persone che nel tempo sono andate fuori da Genova. L'obiettivo è quello di ripopolare la città e di far sì che le eccellenze non lascino la città. Quindi aiutarli in questo nuovo mondo dove il lavoro dipendente è sempre più difficile da trovare, ma le imprese sono molte e chi ha delle idee può andare avanti, aiutarli a costruire un'idea e trovare il denaro per avviare le attività se sono sostenibili. Quindi stiamo avviando un hub dove ci saranno permanenti 7-8 persone di una società del comune, saremo all'interno del comune e lo faremo questo in simbiosi con la Camera di Commercio, con Findustria, con la Regione e con l'Università. Avremo due partner importanti, uno siete voi, Back to Work, e l'altro sarà IBAN. IBAN, se credete dopo ne parliamo, parte come intermediario, ma abbiamo anche l'obiettivo di costituire un IBAN nostro, ovvero che una volta che l'idea, il progetto, il sogno sta in piedi, possono supportare i giovani genovesi a partire. Ecco, l'idea è quella di sostenere la creazione di nuova imprenditorialità, specialmente giovanile, sostenere le idee imprenditoriali o business idea, se vogliamo dirla all'inglese, soprattutto con queste formule appunto di startup, cioè formule che siano di, come possiamo definirle, un'idea per sviluppare. Di solito si parla sempre delle app, ma non è detto che questo sia l'unico canale, un'idea tecnologica, un'idea innovativa che deve trovare un ambiente dove crescere, dove svilupparsi. Questo dovrebbe essere l'obiettivo dal 2 di ottobre qui a Genova. Non è solo questo, è qualcosa di più. Allora, parlare di app è riduttivo, parlare di idee è riduttivo. Ce ne sono veramente tante nel mondo, però ogni volta che si avvia un'impresa ci sono tre elementi che sono fondamentali. E io in passato qualche impresa l'ho avviata, sempre per conto di terzi, ho iniziato 30 anni fa a occuparmi di start-up. I tre elementi sono l'idea, c'è pieno di idee, il denaro, e di denaro da investire oggi ce n'è veramente tanto, il management, che è quello che garantisce a chi ci mette il denaro che l'idea funziona. Allora noi aiutiamo i giovani, i manager, gli imprenditori, i ricercatori che hanno inventato qualcosa di nuovo a costruire un information memorandum con un piano economico sostenibile, a capire quanto e se loro possono investire e a trovare tutto il denaro mancante e il controllo affinché questa startup vada avanti. Le startup sono molto pericolose, hanno un indice di mortalità molto alta, per cui vanno seguite con alcuni meccanismi tecnici che non sono nelle conoscenze di tutti. Questo noi vogliamo fare, individuare le migliori, ricevere giovani che hanno un progettino sostenibile, non un'idea, perché solo l'idea non basta, e accompagnargli alla costruzione della nuova azienda. Certo. Assessore, qual è però il contesto dal quale partite? Ha ritenuto, una volta che ha avuto l'opportunità di intraprendere questo percorso di assessorato appunto al lavoro del Comune di Genova, di individuare già una certa richiesta di un sostegno di questo tipo da parte dell'ente pubblico? Quindi anche settori che hanno bisogno di un supporto di questo tipo qui a Genova, quali sono? Beh, Genova, e questo lo sto vedendo anche con l'università che seguo come assessorato, ha diverse eccellenze. Non parliamo del nautico oggi, ma i robot che si vedono in giro per il mondo vengono fatti tutti a Genova. E noi abbiamo un'eccellenza anche nel settore delle apparecchiature tecnico-medicali, quindi sono realtà molto forti. Cosa succede? Abbiamo l'IT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, che è leader mondiale di ricerca. E cosa succede molto spesso? Che queste idee poi prendono un'altra via perché Genova non c'era in passato. Quindi se c'era bisogno di sviluppare qualcosa, la Genova degli anni passati non dava uno sbocco ai giovani. Noi vogliamo presidiare i cervelli che ci sono, attirarne altri, farne rientrare altri e supportarli. Però partiamo dalle eccellenze che sono proprie di questa città. Perché questa città, tra l'altro sui dati, insomma ne diamo qualcuno così un po' senza annoiare con troppi numeri, ma c'è effettivamente una difficoltà nella creazione, un ritardo in qualche modo nella creazione di imprese giovanili nel territorio genovese. E abbiamo dei dati ad esempio sulle start-up innovative. Nel primo trimestre del 2017 117 start-up innovative, che sono l'1,7% del totale nazionale. Considerata l'importanza della città in generale, sembrano poche. È così? È così perché io stesso tanti anni fa, quando ho voluto fare qualcosa, sono andato a Milano. Quindi chi ha un'idea viene, non trova nulla e parte, va da un'altra parte, si sposta. E stiamo lavorando molto molto su quello. Abbiamo già qualche segnale che non è assolutamente merito nostro, ma ho visto che l'università ha aumentato le immatricolazioni in modo importante. Cosa voglio dire? Si comincia a respirare a Genova un'area di cambiamento e posso dire oggi di far parte di una squadra in comune, molti non vengono dalla politica, che ha proprio voglia di mettere le mani e lavorare in maniera dura per ridare almeno una parte inizialmente dello splendore che Genova ha sempre avuto. Quindi, voi sapete che in passato Genova ha finanziato anche la corona d'Inghilterra. A che tassi? Se è stato fatto un leasing o meno. Erano tassi probabilmente convenienti per l'epoca, ma chissà, poi sai, giocavano sul cambio. Sono arrivati altri protagonisti del risparmio mondiale. Hanno avuto mano felice, diciamo così. Diciamo di no. Volevo chiedere per qualche dettaglio all'assessore su come funzionerà questo hub, esatto. Tursi Hub to Work, lo ripetiamo perché così gli ascoltatori anche della zona di Genova, ma non necessariamente di Genova, possono capire come si farà a essere adottati. Io sono un giovane laureato e ho un'idea brillante e la voglio candidare ad essere incubata in questo contesto. Allora, funzionerà in un modo un po' innovativo per Genova, non per città che sono andate avanti negli ultimi anni. Intanto non è uno sportello dove uno viene e dice ho un'idea. Ci sarà un sistema di prenotazione di appuntamento, per cui si andrà su questo portalino, si schiaccerà il bottone sono uno studente che ha fatto un progetto sostenibile, sono un ricercatore di un'azienda che ha scoperto un nuovo enzima estratto dall'olio di palma, sono un manager che ha perso il lavoro. Allora, in base a quelle che sono le esigenze, viene canalizzato su un team di due dipendenti del comune, di una società del comune, che analizzano quella che è la sua richiesta. Ma soprattutto l'innovazione è che questa persona si scaricherà direttamente da internet un voucher con l'orario dell'appuntamento. Questo nuovo hub sarà aperto anche al sabato mattina e nel secondo pomeriggio, quindi negli orari in cui la gente ha il tempo per andare a cercare. Quindi non funzionerà come il peggiore degli uffici pubblici dove bisogna stare in coda. Il grande rischio è la vampata, arriva tanta gente e poi si spegne. Quindi sarà tutto organizzato e soprattutto lavoreranno per noi l'università che ci indirizzerà i ragazzi, la Confindustria che è il manager e lavoreremo molto anche sui social per mantenere vivo questo tipo di quindi attività. Quindi già la platea che dovrete in qualche maniera filtrare sarà frutto di una selezione. Assolutamente sì. E a questo signore che poi verrà in qualche modo selezionato tra tutti quelli che si candidano, esatto, attraverso questo portale, quindi il portale, l'appuntamento, la verifica della bontà dell'idea, della praticabilità dell'idea, l'Hub Tursi Hub to Work offrirà? Allora, intanto a titolo totalmente gratuito offrirà la consulenza e l'indirizzamento a quelli che sono i partner. Noi abbiamo un accordo con Back to Work, quindi esatto, se si tratta di un manager che ha perso il lavoro o che vuole fare azienda, verrà indirizzato su Back to Work. Abbiamo un accordo con IBAN, che è l'Associazione Internazionale dei Business Angels, che in questo caso sono rivolti ai giovani che hanno bisogno di meno denaro, 70, 80, 150 mila euro per partire, e faremo il nostro. E poi avremo anche uno studio legale internazionale, lo studio BLB, Benedetti Lorusso Benedetti, uno studio presente in Cina e in Sud America, che li aiuterà sempre gratuitamente a costruire un pitch o un information memorandum se l'idea sta in piedi. Da lì si va avanti a trovare finanziamenti. Insomma, ci sembra un fermento non indifferente. Assessore Vinacci, lei da qui, adesso è chiaro che non siete neanche partiti, mi sembra anche abbastanza prematuro individuare in prospettiva come possiate vedervi fra un anno. Detto questo, però, lei in testa qualche obiettivo da raggiungere ce l'avrà. Insomma, come vede questo disegno, la cornice definitiva di questo disegno da qui a qualche mese? Cosa si aspetta che arrivi? Chi arrivi a bussare alla vostra porta? Ribalto quello che lei mi ha detto. Noi abbiamo utilizzato una società della quale non faccio nome, che è del comune al 100%, che per quelle che erano, per quello che è stata la legge Madia, avrebbe potuto essere chiusa. Allora, nella mia testa non esiste chiudere delle società se devo creare lavoro, per cui abbiamo riconvertito una società a fare questo tipo di attività. La legge Madia dice anche che devono fare un certo fatturato annuo minimo per poter rimanere aperte, per cui l'idea è quella di far rendere produttiva questa società. Io vengo da un mondo in cui si trovavano anche capitali per terzi, e da che mondo è mondo, senza salire a Lehman Brothers, questi capitali, chi investe i capitali paga delle commissioni. Quindi senza penalizzare il cittadino o lo studente, però chi vuole impegnare, impiegare denaro su un buon progetto pagherà delle piccole fee che tengono in piedi la struttura. Quindi l'obiettivo è sicuramente entro 6 mesi portarla a regime e trovare equilibrio tra costi e ricavi. Molto spesso i ragazzi che hanno un'idea vincente e hanno tutte le carte in regola per farla decollare, perché sulla carta funziona, hanno bisogno, sì, certamente da una parte magari di finanziamenti per farla partire, ma l'attività di mentoring risulta essere particolarmente importante, perché non è detto che tutti abbiano la vocazione dell'imprenditore. Assessore Vinacci, ecco, questa parte di cui ho letto nel progetto, come verrà sviluppata? Quindi chi affiancherete, professionalmente parlando, a questi giovani con delle idee sulla carta buone, pronte a partire, ma ecco, poi ci si perde un po' perché l'inesperienza anche, no, gioca a sfavore. Certo. Beh, in prima battuta, per divertirmi un po', perché insomma il lavoro che faccio è molto impegnativo, andrò anche io a vedere qualche progetto, che è un po' la mia passione, per costruire un'attività che funziona è come avere un figlio, credo, proprio lo vedi nascere. Poi però lavoreremo molto sull'incrocio con Back to Work, invece, che è ricca di manager alla ricerca di aziende in cui inserirsi. Io credo che molti dei manager di Back to Work, che magari con risorse limitate ma che vogliono fare azienda, potrebbero trovare l'azienda e anche i giovani che la spingono. Quindi sarà un'operazione di matching che vogliamo fare tra tutti i professionisti e tutti gli elementi vitali di questo settore. È un momento molto delicato nel nostro paese per il lavoro, assessore Vinacci. Lei assume un impegno in questa città in uno dei momenti sicuramente più complessi. Stiamo riprendendo un po' in termini positivi di numeri, anche la disoccupazione giovanile sta scendendo, ma si trova ancora a livelli inaccettabilmente alti nel contesto europeo. Lei di tutta questa situazione, insomma, che idea ha? Politiche sbagliate pubbliche, adesso a prescindere poi dalla crisi che stiamo ancora attraversando, dalla quale facciamo fatica ad uscire. Guardi, io parlo per quello che conosco direttamente. Io domani mattina alle 5:30 vado a Roma a firmare al Ministero dello Sviluppo Economico l'accordo per i lavoratori dell'Ilva, che aveva necessità di rimpinguare un fondo a disposizione per mantenere l'80% dello stipendio per ancora 12 mesi. Quindi posso solo dire che c'è una grande disponibilità anche a chi governa, assolutamente, di sostenere il lavoro. Quello che invece penso è che sia finita assolutamente l'epoca del posto fisso. Chi avrà ancora un posto fisso farà molta fatica a fare una vita decorosa. Per cui credo che sia un nostro dovere spingere affinché i giovani capiscano che il film di Zalone, da grande voglio fare il posto fisso, non va più bene. Quando ho iniziato a lavorare io, il posto fisso dava delle garanzie che oggi non ci sono. Oggi, se avessi un ragazzo di 20 anni, gli direi: guarda che se apri una pizzeria guadagni più che andare in banca, e forse, se sei bravo, dopo un anno te ne apri una tua. Soprattutto potrebbe essere quindi più duraturo. Sono cambiati molto i parametri. E poi il posto fisso una volta garantiva liquidazioni, pensioni, che oggi sono tutto un punto interrogativo, già per noi che non ci manderanno mai in pensione, ma per un ragazzo di 30 anni forse vale la pena imparare un'attività, un mestiere, una professione, piuttosto che sperare di andare a fare l'impiegato e far carriera. Vorrei fare un passo indietro sulla questione dei finanziamenti, esatto, perché i dati della Banca d'Italia più o meno ci dicono che un po' in tutta Italia, a dire la verità, ma in particolare anche sul territorio ligure genovese, c'è più la propensione a garantirsi una rendita piuttosto che a rischiarli. Questo vostro progetto di hub è anche per cercare di stimolare l'investimento, mobilitare il risparmio che magari resta poi a sonnecchiare in qualche conto corrente con rendimenti da prefisso telefonico. No, io credo che questo sia legato all'età media dei genovesi. Certo. Quindi in Liguria non ci sono più giovani, e questo fa sì che la persona che ha qualche anno di più i soldini li tenga lì, perché non si sa mai. Però se noi riusciamo a richiamare i giovani, non farli andare via, ritorna tutto in circolo. Io le dico che sto facendo un lavoro molto bello con la Camera di Commercio, che ringrazio, per individuare quelle che sono le aziende nel raggio di 150 km da Genova, governate da genovesi, quindi presidente o amministratore delegato, per provarle a farle rientrare a Genova. Quando sono andato via tanti anni fa, sono andato via perché se volevi fare una riunione col direttore di Roma, di Padova o di Torino, o eri a Milano, non la facevi. Adesso si fa tutto in web conference. Esatto. Allora, ritornare a Genova vuol dire, l'avete detto in apertura, vivere con un tempo meraviglioso. vivere in una città bella. Vuol dire avere un costo del lavoro che è inferiore del 18% rispetto a quello di Milano, un costo della vita che è inferiore del 15% a quello di Milano. Vuol dire che se compra un immobile costa talmente poco che bisogna investire qui. Non si fa l'investimento a Manhattan, si fa nel Bronx, perché le possibilità di ripresa sono molto alte. Ci sono delle zone di Genova dove gli appartamenti costano 30.000 euro. A Milano ne compro 20 con i soldi di uno di Milano. Qui va fatto l'investimento se uno è saggio, soprattutto in un momento in cui l'amministrazione sta lavorando per ricostruire la città. Un'ultima domanda, assessore Vinacci, poi la salutiamo e passiamo il microfono al prossimo ospite che è venuto a salutarci. Il tema del denaro che abbiamo adesso sfiorato. Chiaramente per sviluppare queste attività questi giovani avranno bisogno di finanziarsi e voi sosterrete anche una consulenza in questo campo, ma in realtà il mondo del credito ancora non è tornato ad essere particolarmente disponibile in questo senso, soprattutto se non si hanno tutte le dovute garanzie per far decollare un'attività di impresa. Ecco, diciamo che sulla carta, come dicevamo prima, magari questa platea non è esattamente finanziabile nel migliore dei modi. Il vostro sostegno, il vostro biglietto da visita accanto all'idea di impresa rappresenta un aiuto concreto in questo senso? Assolutamente sì. Il mondo del credito tradizionale non aiuta in Italia le start-up. Siamo un paese molto antiquato da quel punto di vista, però stiamo parlando di nicchie particolari, di investitori particolari che sono consapevoli del fatto che finanziano 10 idee e ne vanno a buon fine 4. Su quelle 4 ci sarà un markup molto forte, per cui il nostro finanziatore, che sarà anche qualche società legata al comune, alla regione che lo fa per mestiere, che può partecipare a nuove società, sicuramente non è la banca ordinaria. Assessore, allora noi la rimandiamo a fra un anno, sperando che naturalmente sia ancora assessore. Perché no, io no. Non è che le vorrei portare sfortuna. No, sperando che il tempo, che il clima sia favorevole come oggi, che ci rivediamo al Salone Nautico. Ci rivediamo al Salone Nautico, naturalmente magari lei ci dovrà portare l'anno prossimo i due nuovi Steve Jobs di Genova, per raccontarci insomma già di esperienze che concretamente sono state accompagnate e sono partite in questo proposta vostro Upwork. Vi ringrazio molto. Benissimo. E all'anno prossimo, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Deborah, è il tuo momento. Ci pensi tu? Sì, certo, perché adesso è il momento delle borse. Venerdì 22 settembre, annunciazione, Radio 24 dalle 14 alle 15.30, puntata extra large di tutti i convocati. Avremo la Coppa dei Campioni, lei, proprio lei, sul tavolo. Ovviamente potete vederla diretta Facebook anche per questo evento eccezionale. Ce la porteranno per mano due che l'hanno vinta. Eh sì, Cafu e Chivu saranno i nostri super ospiti, ma ovviamente avremo anche Giovanni Capuano, avremo De Luca dietro al vetro e poi Dario Ricci che fisicamente ci porterà la Coppa, sarà proprio lui l'uomo che ce la porterà, e ovviamente tutti i vostri commenti, i vostri ricordi, le vostre emozioni, quelle più belle, quelle più brutte, quelle dolci, quelle amare, quelle da gufi, perché c'è anche questo della Champions. Io mi faccio anche la barba per l'occasione. Io no. Vabbè, tu te la tieni. Dov'è la Coppa? A Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta di denari. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo male. Allora, però, cara Deborah, bentornati a Due di denari. Però qui ci siamo spostati come zona. Prima avevamo dei contributi genovesi. Paolo Conte, vabbè, astigiano, ma sai che Marco Lombardo è molto giovane, magari non aveva una conoscenza adeguata di tutta la discografia possibile che rappresentasse adeguatamente quest'area, dovevi sostenerlo un po' meglio. Accidenti, ieri. Va bene, ci parleremo. Però 2 su 3 va bene, dai. Cioè. Sì, è una buona performance, come diresti tu commentando i mercati. Esatto. E allora parliamo di denari, sì. Che non facciamo altro a dir la verità. Esatto. Però ne parliamo. Quelli che ci entrano, quelli che ci tolgono, quelli che spendiamo, quelli che guadagniamo, quelli che ci chiedono dal fisco, ecco. E così via. Però questa volta attenzione parliamo che invece... l'Eva ti guarda anche qua, sappilo. Parliamo invece di coloro che ti danno del denaro perché ti aiutano a comprare un bene, lo comprano e te lo fanno poi utilizzare, e poi tu, quando arrivi alla fine di un certo periodo di utilizzo, puoi proprio diventare proprietario di questo bene. Oh, come si chiama tutto questo? C'è una parola per dirlo, che è il leasing. Che non è un gerundio. Che sarebbe un gerundio, il gerundio, ma avremo occasione di dirlo, sarebbe sempre qualcosa da cui guardarsi. I gerundi, specialmente in inglese, sono spesso forieri di cattive notizie. Questa volta invece il leasing è qualcuno che ti vuole aiutare. Anche perché è un mondo che cresce e rappresenta dei numeri decisamente interessanti per quello che riguarda l'Italia. Te ne do un paio perché so che ti piacciono. Dimmi. Mauro, nei primi 8 mesi di quest'anno, pensa che con il leasing sono stati finanziati circa 5 miliardi di euro in beni strumentali, il 30% per questa grande operazione che è rappresentata da Industria 4.0, della quale il Sole scrive spesso e volentieri. Certo, ma noi per parlare proprio del leasing abbiamo portato qua il presidente di Assilea, che è il dottor Enrico Duranti. Gli diamo il benvenuto qui in trasmissione a Due di Denari, l'abbiamo già ricordato. E quindi siamo in Tre di Denari stamattina. Siamo diventati Tre di Denari, ma ci facciamo dare anche degli altri denari dal presidente Duranti. Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori. Allora, il leasing è uno strumento, diceva Debora, in crescita, ci sono state anche delle misure normative importanti, ma ce n'è poi una che è intervenuta quest'estate, è la famosa legge concorrenza, che qui a Due di Denari è una protagonista assoluta, la legge 124, che ha detto una cosa importante, cioè ha innanzitutto dato la definizione del leasing, perché per quanto strano possa sembrare non esisteva una definizione normativa a tutto tondo dello strumento. Quindi ci spieghi perché è così fondamentale avere finalmente questa precisazione. Perché ancorché noi parliamo e usiamo il leasing per tante cose, anche per comprare le imbarcazioni, visto che siamo qui a Genova. Non è che vi abbiamo invitato perché lei passava di qua, perché il contesto ci sembrava pertinente. Però è da tantissimi anni che usiamo questo strumento, però abbiamo continuato a operare come un contratto cosiddetto atipico, nel senso che il Codice Civile non disciplinava in modo puntuale, come fa per tante altre tipologie di contratto, questo tipo di negozio tra due parti. E quindi finalmente, con, appunto, come diceva lei, con la legge sulla concorrenza, è stata inserita anche la norma che disciplina finalmente il leasing, e in particolare ne disciplina, diciamo, gli aspetti soprattutto a tutela dei consumatori o di coloro che appunto stipulano il contratto, anche per quanto riguarda le patologie del contratto, e cioè la fase eventualmente di inadempimento, quindi dando delle garanzie importanti di comportamento da parte delle società di leasing nel caso in cui si dovesse realizzare un evento, diciamo, di insolvenza. Quindi la vera novità è il fatto che prima di tutto abbiamo una definizione che non relega più il leasing tra le cose extra residuali, che poi generano sempre parecchi contenziosi in tribunale. Adesso sappiamo esattamente che cos'è un leasing, sta scritto nella legge 124. Purtroppo la legge, come abbiamo già avuto modo di ricordare, è un serpentone di 190 erotticommi, ma pazienza, si può cercare lì dentro. E soprattutto, come ricordava lei, ci sono delle garanzie, perché il leasing prevede il pagamento di canoni. Allora, può essere che qualcuno non paga i canoni, oppure che chi ha acquistato e poi concesso in uso il bene non si comporti in modo corretto. Questo adesso dovrebbe diventare normale, vale anche per contratti già in essere? Vale anche per, nella fase eventualmente di inadempimento, vale anche per contratti già in essere. La legge è operativa dal 28 di agosto e tutte quindi le eventuali risoluzioni contrattuali a partire dal 28 di agosto devono seguire questa nuova normativa a tutela appunto dell'utilizzatore. E non c'è solo il leasing naturalmente dei beni industriali, quello che serve per acquistare, che so, un capannone piuttosto che un macchinario, ma anche il leasing ad esempio abitativo. Esatto. Perché ci sono degli strumenti, ci sono degli strumenti importanti. Viene utilizzato, è stato utilizzato? Allora, diciamo che il leasing abitativo è stata una grande novità. Sicuramente l'associazione ha anche spinto, insomma, per questa innovazione, anche perché il leasing, diciamo, per le persone fisiche è stato per lo più utilizzato fino adesso sul prodotto auto. riuscire a dare un'alternativa, peraltro poi diventata fiscalmente molto interessante, soprattutto ai giovani, gli under 35. Ai giovani under 35 con un reddito disponibile inferiore ai 55.000 euro, di poter acquistare invece che con la forma tradizionale attraverso un leasing immobiliare abitativo, consente intanto di avere diciamo un'imposta che è solo pari all'1,5% invece che le tradizionali imposte ipotecarie e catastali, e poi poter appunto beneficiare di una detraibilità del canone, dell'intero canone, fino diciamo a certe soglie che comunque per chi ha redditi pari e sotto i 55.000 euro sono molto interessanti. Ancora devo dire la numerosità dei contratti, esatto, che è partita un pochino in sordina questa novità, però teniamo presente che ecco, non è un gerundio il leasing, ma nella diciamo larga parte dei potenziali clienti, insomma dei contribuenti, non è ancora così noto, cioè è una fattispecie nota ai commercialisti, nota alle aziende sicuramente, nota ai liberi professionisti in generale, ma diciamo all'utente normale il leasing, certo, come concetto è ancora da entrare. Diciamo che legato all'acquisto della prima casa c'è ancora la concezione del credito di carattere, ecco, tradizionale. Sicuramente il vostro strumento è partito contestualmente anche ad una ripresa del credito tradizionale, che non avrà giocato a vostro favore. Sicuramente è stata una buona notizia, però ecco. Voglio aggiungere una cosa su cui io credo molto, e cioè può essere un momento di passaggio da una locazione commerciale, cioè una famiglia che utilizza un'abitazione secondo un contratto di locazione, verso appunto una locazione finanziaria, prima di arrivare magari appunto attraverso il riscatto finale all'acquisto vero e proprio. Quindi è cercare di entrare nella logica di un contratto che è un'evoluzione in un certo senso della locazione commerciale. Grazie, la fermo un istante perché adesso è il momento del traffico. Due di denari. Allora, qua siamo dovuti andare all'estero per completare la colonna sonora che accompagna la prima trasferta di Due di Denari, che è al Salone Nautico di Genova. Siamo con Morciba, adesso da Paolo Conte. Ma non è un messaggio subliminale che mi stai mandando, perché dopo che ti ho portato al mare, immaginaci spalmati a prua su una delle belle imbarcazioni che adesso vado a scegliere, quella di mio gradimento, non ti faccio spendere tanto. Signor Duranti, qui davanti a noi, il presidente di Assilea, ci darà tutta la consulenza necessaria per farti fare un acquisto non pesantissimo per le tue tasche. Ci indebitiamo, dai, in maniera sostenibile. Il C che mi lascia perplesso, cara Debora, però è vero che il leasing, prima dicevamo, il leasing per acquistare macchinari, il leasing per acquistare un capannone, il leasing per acquistare un'abitazione, e l'importante novità che è dello scorso anno. Le nostre auto aziendali le abbiamo lasciate fuori per non essere in conflitto di interessi. No, non parliamo delle nostre auto aziendali, ma parliamo ad esempio del leasing abitativo per le giovani coppie, che è uno strumento, è un po' in sordina, è vero, lo ricordavamo prima, c'è stato anche un miglioramento, per dir così, sul lato del credito, quindi sulla concessione di credito, le cose sono andate un po' meglio, però c'è anche il leasing nautico. Allora, se io volessi regalarti un'imbarcazione, voglio proprio sentire che trattativa mi porti a casa. Ho visto dei gommoni piccoli che forse riesco con un leasing a regalarti. Guarda, per quanto piccoli ti posso dire che io mi accontento, anche perché non sono questi qua da 7-8 metri, era una cosa da un metro e mezzo, una roba così. però che sia un metro e mezzo, che siano 25 metri, come funziona il leasing ad esempio nella nautica? No, funziona bene, ci arrivo subito. Magari una piccola notizia sul leasing delle auto, no? Il mercato delle auto in Italia nei primi 8 mesi è cresciuto di più dell'8%, ma tenete conto che leasing finanziario e leasing operativo invece sono a più 16% nei primi 8 mesi. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che lo strumento, sia in acquisto sia soprattutto in noleggio, quindi leasing operativo è il noleggio sostanzialmente delle autovetture, è un qualcosa che sta trovando ancora più riscontro in Italia, sempre più diciamo omologandosi a quello che succede nei mercati nord europei, dove la soluzione noleggio è diciamo utilizzata in grandissima parte. Venendo al nautico, speriamo di raggiungere gli stessi tassi di incremento. Stiamo andando bene, non siamo ancora ai numeri diciamo pre-crisi evidentemente, però si sta andando molto bene. Sta andando bene sia diciamo la vendita all'utente finale, ma molto importante, credo forse ancora di più, l'utente commerciale, cioè la società di charter nautico. Quindi le società sostanzialmente di noleggio di imbarcazioni che nell'acquisto utilizzano la formula leasing e poi forniscono sostanzialmente ai clienti una soluzione di turismo, no? Certo. Leasing è uno strumento effettivamente molto versatile, perché poi ad esempio potremmo ricordare anche l'utilizzo che ne possono fare i professionisti che devono acquistare dei macchinari molto costosi, non so, immaginiamo un dentista, tanto per fare un esempio molto, molto banale. Che tra l'altro non sarebbe stato il primo che mi veniva in mente, il dentista che acquista un'apparecchiatura in leasing. No, ma questo per dire anche un po' il pregiudizio che circonda un po' questo mondo, no? Sì, e poi volevo ritornare ancora un istante allora sulle auto aziendali, giustamente le avete ricordate, perché le auto aziendali sono un aspetto, ma poi c'è anche l'acquisto da parte di privati. Oramai l'acquisto il leasing per l'auto anche di privati è una cosa che si sta diffondendo molto rapidamente. L'abbiamo vista crescere, credo, negli ultimi 2 anni. È così, Presidente Duranti? Sì, devo dire che più che l'acquisto proprio finanziario, quindi leasing finanziario, sì, è proprio il leasing operativo, cioè il noleggio, anche da parte dei privati, non solo quindi più dalle flotte aziendali, ma anche... un artigiano, diciamo, che... Ma anche il privato, che piuttosto che occuparsi di tutte le sue problematiche di bollo, degli pneumatici, le assicurazioni eccetera, ottiene diciamo con la formula del leasing operativo, del noleggio auto, la soluzione diciamo di un utilizzo del bene invece che dell'acquisto. C'è un ascoltatore che ci chiede qualche dettaglio sul riscatto anticipato. Sì. È una cosa che riusciamo a dire in pochi minuti sul leasing abitativo. Giustamente, esatto, mi corregge Deborah, sul leasing abitativo dei privati. Beh, si può estendere la domanda anche a tutti gli altri. Effettivamente beni, riscatto anticipato, esempio, è qualcosa che si può fare sempre nel leasing. Esattamente. Mi conferma. Sì, esattamente. E ci chiede appunto, ma per il leasing abitativo dei privati come funziona? Ci sono delle particolarità nel riscatto anticipato del bene, cioè dell'abitazione? No, non ci sono delle particolarità, diciamo si calcola il debito residuo a quella data e poi si naturalmente dà la facoltà al cliente di poter riscattare. Tenga conto che c'è anche un altro vantaggio per quanto riguarda il leasing abitativo: se uno vuole cambiare casa e trova magari un'altra coppia interessata al leasing abitativo, può girare il contratto, può cedere il contratto invece che cedere la proprietà. E come funziona esattamente? Cioè, è una cessione di contratto. La cedo a qualcun altro o la cedo di nuovo? Lei ha un leasing abitativo con la mia società di leasing, la società di leasing che dirigo, e vuole cambiare casa perché ha fatto figli. Perché Deborah vuole un appartamento più grande. Più grande, esattamente. No? C'è quel signore che invece sta nelle sue condizioni in cui vuole quell'appartamento magari più piccolo, e invece di riscattare, ricedergli la proprietà, lei gli... naturalmente con l'autorizzazione della società di leasing, che deve valutare il merito di credito, può cedergli la posizione contrattuale. E quindi anche da questo punto di vista le imposte di registro, di trasferimento, sono pari all'1,5%. Abbiamo anche Maria dalla provincia di Verona, da Verona, che ci chiama e che salutiamo, che ci ha seguito fino a Genova. Maria non c'è. Paolo da Verona. Allora io Paolo da Verona. Paolo, buongiorno. Buongiorno Paolo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Eccoci a lei. Ci dica. Niente, ma avevo fatto una domanda, sembra che avete già risposto sull'eventuale riscatto anticipato. Ecco, sì. La cosa che volevo capire è: più penalizzante o meno penalizzante un riscatto anticipato rispetto ad un mutuo? Ecco, come si fa a calcolare l'eventuale... Non è sostanzialmente equivalente, tratta di calcolare il debito residuo come si farebbe esattamente nel caso di un mutuo. Il leasing finanziario è un finanziamento però attraverso l'acquisto del bene. Eccola qua, vedi che Maria da Verona c'era, buongiorno. Adesso è in linea, mi buongiorno. Gli buongiorno. Qua, Valentina. Buongiorno. Senta, le volevo chiedere questa informazione. Per i liberi professionisti ne vale la pena comprare un'auto che per la famiglia, non per l'azienda o per lo studio, con il leasing? Sì, cioè avere la macchina in leasing, lo chiediamo esatto. subito al Presidente Magari, Durante. Ecco, facendoci attraverso un esempio capire quali sono i parametri che dobbiamo utilizzare se, per fare un calcolo di convenienza tra il leasing e un acquisto tradizionale. Allora, ovviamente... A parte l'angoscia una... di lasciarla sotto il parcheggio e praticamente trovarsela rigata a doverla sistemare con i propri, magari con il leasing, ma, l'assicurazione... Di proprietà. Beh, esatto. Vabbè, ma no, quello... Allora, se stiamo parlando di leasing finanziario, quindi leasing sostanzialmente dove abbiamo il diritto di riscatto sostanzialmente a fine periodo, per le partite IVA ovviamente c'è la detraibilità fiscale e quindi c'è anche il vantaggio di un ammortamento che è anche più accelerato rispetto al finanziamento e quindi c'è un vantaggio fiscale rispetto all'acquisto. Per invece le persone fisiche questa deducibilità dal reddito non c'è, quindi la soluzione del leasing rispetto all'acquisto o al finanziamento tradizionale è francamente poco inferiore, però c'è il vantaggio che il bene in qualche modo, uno di quel bene ad esempio per l'autovettura, non deve sopportare alcune spese connesse che invece possono essere nel a carico del concedente. Nel caso del leasing operativo è vero, perché sì. stiamo parlando appunto di un full leasing con tutti i servizi. Nel caso normalmente del leasing finanziario no. Bollo, assicurazioni sono a carico dell'utilizzatore. Allora, noi stiamo chiudendo, credo che abbiamo 40 secondi, sì. ma Sergio da Milano, proprio in corner, voleva chiarimenti e novità sul leasing nautico. Ce ne sono, Presidente Duranti? Ce ne sono, nel senso che sempre ci sono molte più società di leasing che hanno ripreso a operare nel settore nautico, anche se le prime, diciamo, 5 sono quelle che fanno un po' l'80% del mercato. Dal punto di vista fiscale non ci sono novità, c'è una fiscalità comunque conveniente in termini di IVA. Però ci sono tante belle imbarcazioni che sono pronte lì ad essere utilizzate. E ci sono tante società di leasing molto disponibili a operare contratti con nuovi clienti. Benissimo. Sicuramente sì. Bene, grazie Presidente Duranti. Grazie. Ringraziamo molte. Anche Sergio. Grazie a voi. Non l'abbiamo mandato in onda, ma lo aspettiamo qui a Genova. Esatto, in bocca al lupo. Andiamo a scegliere la barca. Grazie a tutto lo staff tecnico che ci ha seguito qui a Genova. E buon vento a tutti anche grazie. Da parte mia. Grazie. Noi andiamo a prendere il treno che dobbiamo tornare a Milano. Altro che barca, caro mio. Uffa. Andiamo.